24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 19 secondi di questo venerdì 7 febbraio inizia la terza parte di 24 Mattino. Buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ascoltatori e ascoltatrici che forse non ti hanno sentita benissimo, vediamo se il collegamento regge, vedremo, lo vedremo nel corso della puntata, che ci possono raggiungere al 349-238-6666 per gli sms e i messaggi su WhatsApp, anche audio naturalmente, e all'800-240024 se vogliono intervenire in diretta. Parleremo molto oggi di ferrovie, di infrastrutture ferroviarie. L'incidente l'abbiamo raccontato anche ieri, il Frecciarossa che a 290 all'ora è deragliato nell'area di Lodi ieri all'alba, nella notte c'erano stati i lavori su quella tratta, c'è un'ipotesi di errore umano, soprattutto ci sono due vittime, i due macchinisti, 31 i feriti. Salutiamo Stefano Malorgio, che è segretario generale della FILT CGL, è il sindacato dei, appunto, del settore dei trasporti della CGL. Buongiorno Malorgio e benvenuto. Buongiorno, grazie. Prego Maria. Buongiorno. La prima cosa che mi viene da dire ovviamente è il pensiero alle due vittime. I ferrovieri sono stati ricordati dai loro colleghi, sia di Quonzo che Ciucci, come due grandissimi professionisti. Di Quonzo addirittura aveva insegnato il mestiere ai più giovani. C'è un punto che riguarda però le morti sul lavoro. Landini ieri ha citato il numero dei morti che ci sono stati, che non riguardano l'alta velocità, perché è bene ricordarlo, questo è il primo incidente mortale che si verifica sulla tratta dell'alta velocità in 10 anni dell'esistenza di questa infrastruttura che ha cambiato la vita anche a tanti italiani. Però le volevo chiedere se secondo lei c'è bisogno di fare qualche aggiustamento alla legge che regola appunto il rapporto di lavoro e la sicurezza sul lavoro. Intanto buongiorno a tutti. Più che un aggiustamento sulla legge che riguarda la sicurezza sul lavoro, io credo che ci voglia un'analisi corretta delle procedure che si adottano dentro le aziende da tutti i punti di vista. Gli incidenti sono sempre determinati per la nostra esperienza da un concatenarsi di cause. Io già ieri ho sentito, ho letto delle agenzie che parlavano di errore umano. Guardate, concatenarsi di più cause determina incidenti, non ce n'è mai soltanto una. Per cui è un tema che riguarda le procedure, è un tema che riguarda i tempi di lavoro e come si lavora, l'adeguatezza del numero di persone che svolgono determinate lavorazioni. Come diceva ieri Maurizio Landini, noi abbiamo la necessità che al centro non sia profitto, ma che al centro, dentro le imprese, ci sia il tema della salvaguardia di chi lavora, perché non è possibile andare a lavorare e non tornare in più casa. Senta Malorgio, la porterei su quello che è più lo specifico dell'incidente avvenuto ieri. È un incidente, l'abbiamo detto, le prime indicazioni anche date dal pubblico ministero di Lodi sembrano dire che si è trattato di un errore nella manutenzione, forse anche dei sistemi automatici che non hanno funzionato come dovevano per segnalare che quello scambio era aperto, però ovviamente tutto questo lo vedrà l'inchiesta. Detto ciò, noi stiamo parlando di una rete, quella dell'alta velocità, che ha un alto livello di manutenzione mediamente. Certo, il sistema, non soltanto il sistema dell'alta velocità, ma mediamente tutte le linee ferroviarie italiane hanno un alto livello di manutenzione, ed è per questo che noi oggi alle 12 abbiamo un incontro con il gruppo FS e proveremo a capire nello specifico, secondo le prime inchieste interne che l'azienda sta svolgendo, che cosa è successo nello specifico ieri. Insomma, si tratta di andare a capire se tutte le procedure sono state rispettate, si tratta di andare a capire se le composizioni delle squadre. Ma Lorgio, mi perdoni un attimo, una cosa tecnica, se può tenere la bocca lievemente più vicina alla parte, alla cornetta, come si dice, cioè alla parte dove. Perfetto, così è perfetto. Così è meglio, così è meglio. Prego, prego, prego, vada. non so dove mi avete sentito, per cui no, l'abbiamo sentita, 12, non benissimo, ma l'abbiamo sentita, prego. Oggi prego. Alle 12 abbiamo un incontro con l'azienda, andremo a verificare quali sono stati gli esiti delle prime verifiche interne, cercheremo di capire se c'è già un'idea specifica sulle cause e cercheremo con loro e chiederemo a loro di partire con un tavolo permanente sulla sicurezza, perché questo è un tema che vogliamo affrontare passo passo, facendo ciascuno la propria parte. Maria? A proposito del tavolo sulla sicurezza, so che la ministra del lavoro, Catalfo, ne ha attivo uno e abbiamo letto sui quotidiani questa mattina che era in azione un sito televisivo privato, come in tutte le stazioni ferroviarie, che potrebbe aiutare a capire che cosa è successo, però non c'erano telecamere posizionate là dove è stata fatta la manutenzione. Mi chiedo e le chiedo se forse una presenza più puntuale di telecamere laddove si lavora a una cosa così delicata come gli scambi ferroviari, binari ferroviari, possa essere d'aiuto e se il sindacato la chiederà. Guardi, io ho un'ipotesi, ho un'idea precisa su questo elemento. La linea ferroviaria è una linea di per sé molto fragile da questo punto di vista. Se vi ricordate tutto il dibattito sulle manomissioni che erano state fatte sulla linea ferroviaria, sui furti di rame, e c'è un punto di delicatezza nella linea ferroviaria che non può essere ovviato, come dire, mettendo telecamere su tutte le linee, perché altrimenti deve essere solo. Stiamo perdendo Malorgio che è su un treno, giustamente sta lavorando, e anche con Maria Latella l'audio non è un granché nemmeno con te oggi, Maria, evidentemente abbiamo qualche problema. E qua ci scrive un ascoltatore: abbiamo capito che sulla linea più importante non c'è un micro switch che in ogni caso segnala in centrale la posizione dello scambio. No, in realtà da quel che abbiamo capito, però anche qua l'inchiesta lo dovrà appurare naturalmente, questo elemento c'è, e però nel caso non si capisce esattamente, lo racconta bene Maurizio Caprino oggi sul Sole 24 Ore, nel suo pezzo sull'inchiesta, non si capisce bene se questo elemento abbia funzionato. In questo caso, ci dice un altro ascoltatore, la manutenzione non entra ma consegue alla manutenzione, non telecamere, dice, ma monitoraggio, ci dice Federico. Abbiamo recuperato Malorgio sul tema appunto delle telecamere. Prego, vada. No, dicevo, quindi più che le telecamere, i sistemi di manutenzione sono dotati di sistemi di controllo centralizzati, cioè bisogna capire come funzionano, se hanno funzionato bene, se si possono fare dei passi in avanti da un punto di vista tecnologico, quindi non tanto la telecamera in sé, che la telecamera in sé non è in grado, a mio parere, di verificare se la manutenzione è fatta correttamente, invece i sistemi di controllo sulla rete hanno questo tipo di funzione. Ascolti Malorgio, c'è un'altra questione che è stata sollevata nelle settimane scorse da più di un giornale, lo dico non perché è casa nostra, però a partire dal Sole 24 Ore, poi ripreso da altri quotidiani, penso alla Stampa e non solo, che è quello di questo sovraccarico della rete ad alta velocità. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono sempre più treni ad alta velocità che viaggiano su quelle linee. Cosa comporta questo? Non che non ci sia manutenzione, ma che il tempo per la manutenzione si riduca, perché i treni passano più spesso, molto semplicemente. Questo può aver pesato, Malorgio? Lo verificheremo. La cosa vera è che i tempi di manutenzione sono ormai sostanzialmente solo quelli notturni, perché la quantità di traffico sulle linee tutte, non soltanto quelle dell'alta velocità, è una quantità di traffico importante che posta il momento della manutenzione soltanto nella fase notturna. Ovviamente questo ha un impatto, diciamo, da un punto di vista del modello di lavoro, e deve essere un impatto che viene governato, insomma, perché lavorare di notte non è la stessa cosa che lavorare di giorno da tanti punti di vista. Questo è un po' il tema, però non sono così d'accordo nel dire che questo traffico non consente poi la manutenzione ordinaria, perché la manutenzione è un elemento che viene messo, come dire, di default, e quindi il traffico deve essere compatibile con la manutenzione che si fa. Certamente l'aumento del traffico rispetto a delle linee che hanno una capienza di un certo tipo introduce ulteriori elementi di verifica sui sistemi di sicurezza che devono essere adottati, ricompresi quelli di tenere in conto che i manutentori, coloro che fanno la manutenzione alle reti, lavorano, come dicevo prima, quasi esclusivamente di notte ormai. Senta Malorgio, una domanda che ci stanno facendo molti ascoltatori fin da questa mattina, e quindi gliela dico così come ce la dicono loro. Ha senso fare uno sciopero di 2 ore oggi, e non avrebbe avuto, alcuni ce lo scrivono, più senso devolvere 2 ore di lavoro alle famiglie delle vittime di ieri? Le due cose non sono incompatibili. Lo sciopero è un momento in cui i lavoratori segnalano che il tema della sicurezza deve essere messo al centro delle politiche aziendali, al centro delle politiche del lavoro. Devolvere le ore, quello lo faremo, come abbiamo sempre fatto, e le due cose non sono assolutamente incompatibili. Tenga conto che nella categoria c'è grande rabbia in questo momento, rabbia per quello che è accaduto, rabbia per i colleghi morti, e in qualche modo questo è un segnale forte e importante che vogliamo dare, che su questo tema non intendiamo compiere nessun tipo di passo indietro. Maria, ti abbiamo recuperato. A proposito della comprensibile rabbia, e la capiamo assolutamente, ripeto, i ferrovieri italiani sono dei grandissimi professionisti e immagino il loro dolore, ma qual è la vostra sensazione in generale sullo stato delle infrastrutture ferroviarie, che sono fondamentali per questo paese, perché sono state trascurate negli anni 50, 60, 70 perché bisognava aiutare il trasporto su gomma, ma invece appunto con l'alta velocità è cambiata proprio anche la fase del paese. Ma in generale le ferrovie italiane lei le definisce sicure? Se guardo ai dati degli incidenti, assolutamente sì. Dopodiché questo non significa che ci dobbiamo fermare, perché gli incidenti devono scendere a zero. L'incidente ferroviario, l'incidente di per sé, per sua natura, e spesso porta a delle conseguenze catastrofiche, e quindi si può fare meglio, si deve fare di più, ma da qui a dire che le linee ferroviarie italiane non sono sicure da un punto di vista semplicemente dei dati statistici, ce ne passa. Grazie Stefano Malorgio della FILT CGL per essere stato con noi. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio ce ne stanno arrivando, tra un po' li faremo ascoltare. Torniamo a parlare di questo argomento subito dopo la pausa. Torna da noi Andrea Giuricin, amministratore delegato di Tra Consulting, docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano, e quindi rimaniamo su questi temi. Giuricin, bentornato, buongiorno. Grazie per l'invito, buongiorno. Maria, prego. Buongiorno professore, queste ore sembra un po' triste dirlo, e però bisogna ricordarlo, questo che è avvenuto ieri vicino a Lodi è il primo incidente mortale in 10 anni di alta velocità. Allora le chiedo, da esperto, così come l'ho chiesto prima al sindacalista, se noi possiamo definire l'alta velocità, almeno per quanto riguarda l'alta velocità, un'infrastruttura sicura. Assolutamente, l'alta velocità, ma in generale tutto il trasporto ferroviario, è estremamente sicuro. Se andiamo a vedere le statistiche, io capisco in questo momento di tristezza guardare solo i numeri non è abbastanza, però è necessario. Se guardiamo le statistiche, dimostrano che il trasporto ferroviario è molto più sicuro rispetto al trasporto stradale. Per questo motivo bisogna fare molta attenzione, perché se noi spostiamo traffico dal trasporto ferroviario al trasporto stradale, significa di aumentare la probabilità di avere un morto di 36 volte. Quindi questo è bene ricordarlo, perché è essenziale per mantenere un sistema che comunque rimane sicuro nonostante quello che è successo ieri, che dovrà essere ben chiarito e in fretta. Giuricin, la stessa attenzione che è riservata, l'attenzione riservata all'alta velocità in termini di manutenzione è riservata anche alle altre linee? Allora, l'alta velocità sicuramente, come sappiamo, è stato un grande investimento, no? Si parla di 35 miliardi di euro per la costruzione della linea. La manutenzione nell'alta velocità comunque è un ottimo livello, ma se andiamo a vedere anche il sistema ferroviario italiano, in generale il livello di sicurezza è elevato. Se andiamo a fare un confronto con gli altri paesi europei, siamo assolutamente in linea con tutti gli altri paesi europei, siamo anche meglio di Austria o ad esempio anche del Belgio, siamo più o meno agli stessi livelli di Francia e Germania, quindi non si può dire che in generale nel sistema ferroviario italiano manchi sicurezza. Bisogna fare sempre di più, però ricordiamoci che il rischio zero purtroppo non esiste. Maria. Professore, tra l'altro lei citava la Francia e la Germania, lo ricordavamo anche ieri, in Germania ci fu non moltissimo tempo fa un incidente ferroviario con 100 morti, insomma una cifra veramente impressionante, e cosa che per fortuna, toccando tutto il legno possibile, il ferro possibile, appunto in Italia non si è data, e l'alta velocità, citiamolo ancora una volta, in 10 anni ha avuto un solo incidente mortale. Non possiamo dire purtroppo la stessa cosa, professore, per le infrastrutture in generale del paese, per la rete autostradale che, a cominciare dalla tragedia del Ponte Morandi con le sue 43 vittime, ma anche a tutte le segnalazioni di fragilità dei viadotti italiani, rimane una spina nel fianco per la sicurezza dei viaggiatori. Lei potrebbe darci anche, come dire, in generale, no, una stima delle risorse necessarie per rimettere in sicurezza le infrastrutture autostradali e stradali del paese? Quanto sì, serve? Guarda, non è assolutamente facile dire esattamente quanto serve, perché bisogna capire davvero il livello di degrado di determinate infrastrutture. Purtroppo ce ne siamo accorti di fatto poco meno di 2 anni fa in che stato veramente le infrastrutture si trovano, e ultimamente purtroppo ce ne stiamo accorgendo. Io dico solo una cosa: negli ultimi 30-40 anni c'è stato solo un grande investimento in Italia nelle infrastrutture, che è stata di fatto l'alta velocità, e sappiamo come dicevo prima, sui 35 miliardi di euro, e come dicevo prima è un'infrastruttura che comunque rimane sicura e che ha cambiato anche l'Italia, come ben sappiamo. Quindi indubbiamente bisogna fare attenzione alla manutenzione, ma bisogna fare anche attenzione a migliorare sempre di più il sistema logistico. Il sistema logistico si fa anche tramite un sistema infrastrutturale che funzioni bene. Se noi non miglioriamo questo sistema logistico, significa perdere competitività, le aziende perdono di competitività e l'Italia perde di competitività. Proprio per questa ragione è necessario fare attenzione, fare bene i calcoli per vedere quando le opere sono necessarie, ma si parla di diverse decine e decine di miliardi di euro. Ritiene Giuricin, come da qualche parte si è scritto nelle settimane scorse, che la rete ad alta velocità sia sovraccarica, il che non vuol dire che per così dire ci siano rischi maggiori, vuol dire semplicemente che, insomma, probabilmente serve qualcosa in più, forse nuove infrastrutture ulteriori. Allora, indubbiamente la rete è stata dichiarata satura fra Roma e Firenze e la stazione di Milano Centrale, quindi esiste ad oggi esiste un problema. Sono due problemi diversi. Milano Centrale non è facile da risolvere, perché c'è bisogno, diciamo, di più spazio, e come sappiamo, essendo in centro a Milano, non è facile trovare questo spazio, a meno che non si spostino dei treni regionali da Milano Centrale, che arrivano a Milano Centrale, su Milano Garibaldi, ed è una delle soluzioni di RFI. Per quanto riguarda la Roma-Firenze invece il problema è diverso. Innanzitutto bisogna finire di mettere quello che è l'RTMS livello 2, che di fatto è una tecnologia per migliorare anche sia la sicurezza ma anche la capacità della rete, che esiste su tutto il resto dell'alta velocità. Mettendo questa nuova tecnologia, e si sta mettendo in questo momento, aumenterà la capacità e quindi la rete potrebbe non essere dichiarata più satura. Detto anche questo, è bene ricordare che sulla rete Roma-Firenze, sulla famosa direttissima, ad oggi viaggiano anche dei treni regionali, che vanno molto più piano, che rompono, come si dice, o comunque diminuiscono la capacità. Allora, se è una rete alta velocità come la direttissima, deve essere utilizzata per l'alta velocità, anche perché poi di fianco esiste, come ben sappiamo, la rete tradizionale su cui dovrebbero andare i treni regionali. Quindi parla anche di ottimizzazione della rete. Sì, e poi c'è il mitologico tema del passaggio sotto Firenze, Giuricin, del quale discutiamo da anni. Esatto, purtroppo lì, come ben sappiamo, a proposito di infrastrutture ferme, lì, come ben sappiamo, il tunnel e la stazione di Firenze sono di fatto in una situazione, direi, molto critica e estremamente arretrata. Se vogliamo migliorare la connettività e ridurre anche i tempi di percorrenza, questa opera sicuramente è importante e necessaria. Abbiamo visto quanto è successo a Bologna, come ha migliorato comunque la connettività di Bologna, come sono ridotti anche i tempi di attraversamento di Bologna, e quindi è una di quelle opere che sicuramente potrebbero migliorare sicuramente anche la congestione, perché sappiamo che il nodo di Firenze è un altro nodo bello, bello congestionato. Maria? A proposito di treni regionali che consentono a migliaia di lavoratori di non usare l'automobile, con grandi vantaggi per l'ambiente e anche per la loro vita. Adesso c'è la buona notizia che treni totalmente nuovi arriveranno, per esempio, per le ferrovie Trenord, e questo è una buona notizia per tutti i passeggeri lombardi. Però le chiedo, com'è la situazione in generale? Il ricordo va a quell'altra tragedia ferroviaria, quella in Puglia, dove un sistema di ferrovie locali, tra l'altro gestita da una famiglia della zona, appunto, è ancora nel ricordo di tutti noi per il dolore che ha causato a tante famiglie. L'incidente fu veramente enorme. Beh, insomma, com'è il sistema ferroviario locale secondo lei? In che condizioni si trova? Le condizioni dipende chiaramente da rete a rete, nel senso, la rete di RFI in linea di massima ci sono stati grandi investimenti per renderla sempre più sicura. Questo non significa avere rischio zero, purtroppo, ma come vi dicevo prima dalle statistiche, sicuramente la rete rimane sicura. Detto questo, c'è un altro problema di qualità del servizio, e questo è un problema che tutte le regioni, praticamente tutte le regioni, hanno dato direttamente a un determinato operatore, può essere Trenord o Trenitalia, senza gara il servizio. E come ripeto spesso, se noi non abbiamo il fatto che si possano fare delle gare, che il servizio possa essere liberalizzato e che quindi possa vincere il migliore, chiaramente c'è un problema di sovraccosto. È appena successo in Regione Lombardia, dove Trenord ha rinnovato il contratto, dove il costo del servizio, cioè il costo per noi cittadini che paghiamo le tasse, aumenta, diamo più sussidi. Allora c'è anche un tema di qualità, non solo di sicurezza, perché comunque i cittadini che pagano le tasse, le aziende che pagano le tasse, devono poi avere servizi adeguati. Allora bisogna fare attenzione anche a questo punto, ed è un punto che purtroppo in questo momento non si è risolto. Cioè, se nell'alta velocità abbiamo visto i benefici della concorrenza, nel settore locale, il cosiddetto trasporto regionale su ferro, purtroppo questa concorrenza non l'abbiamo ancora vista. Sentiamo qualche ascoltatore, a partire da Diego dalla provincia di Roma. Diego, buongiorno, prego. Sì, buongiorno, salve. Io sono dentro all'osservatorio Pendolari della Roma Orte, e noi abbiamo analizzato questo problema dei tempi della manutenzione, visto tutti i ritardi che sono provocati negli ultimi 2 anni, e mi dispiace che gli addetti ai lavori non abbiano detto che il problema lo ha creato l'autorità di regolazione trasporti, quando su pressione degli operatori che viaggiano sul linea dell'alta velocità, in questo caso parliamo di Italo, che giustamente è in mercato con Trenitalia, ha obbligato l'autorità di regolazione dei trasporti 2 anni fa ad abbassare notevolmente il canone che paga l'operatore di trasporto sopra l'infrastruttura, quindi di RFI, quindi l'alta velocità, e abbassando il canone ha determinato l'aumento spropositato di slot. Cioè, stanno viaggiando in alcuni orari, tolti quelli che servono a noi come pendolari, treni che sono mezzi vuoti. Quindi prima girava un treno pieno di Trenitalia, un treno pieno di Italo, ora ne girano 2 mezzi vuoti. Riduce il tempo della manutenzione. Sì, il che sarebbe testimoniato, Diego, anche dal fatto che su quel treno, per quanto fosse il primo treno della mattina, viaggiavano 30 persone. Ne parliamo con Giuricin tra un attimo, ma voglio sentire anche Aurelio dalla provincia di Monza e Brianza. Aurelio, buongiorno. Buongiorno a voi. Io avrei bisogno di capire una cosa, sulla scorta anche di quello che di cui ha parlato il professore. Vorrei capire perché quando si decide di realizzare una nuova infrastruttura, non a budget, si prevede una quota che deve essere necessariamente accantonata e conferita in una cassa speciale per le future manutenzioni. Ovvero, è chiaro che questo conferimento non deve essere fatto dal general contractor, ma dall'azienda che poi prenderà in gestione quella infrastruttura, che sia un ponte, un pezzo di strada. Chiarissimo, chiarissimo, Aurelio. Una sorta, la semplifico per gli ascoltatori, chiamiamola una sorta di caparra, cioè del denaro che l'azienda mette là e dice: questi soldi saranno destinati alla manutenzione. Giuricin, lasciami anche dire una cosa all'altro ascoltatore. all'ascoltatore. Ti sentiamo aspetta, Maria, dato che ti sentiamo malissimo, ti sentiamo malissimo. Adesso proviamo a recuperarti un attimo. Facciamo rispondere a Giuricin al primo ascoltatore su questo tema, appunto, delle tratte che sono state messe a costo molto basso. E quindi cosa succede? Che si fanno viaggiare i treni anche se sono semivuoti. Giuricin, che dici? Bisogna dire che purtroppo l'ascoltatore sbaglia. L'autorità di regolazione ha abbassato il pedaggio perché quel pedaggio non era dovuto. Teniamo conto che il pedaggio copre tutti i costi, praticamente copre i costi diretti, i costi di manutenzione, quindi della rete, più dei costi fissi per gli investimenti, una parte degli investimenti. Quindi il pedaggio ad oggi è stato regolato in questa maniera. Bisogna anche dire che i treni a alta velocità, a parte quello di ieri mattina, che per fortuna era, come sappiamo, molto vuoto, i treni viaggiano con load factor intorno al 70-75%. Altissimo. Che è altissimo. E anzi, sì, proprio grazie a questo abbiamo molti più treni e anche treni molto pieni. È chiaro che quello delle 5:10 del mattino, ripeto, per fortuna era mezzo vuoto. Load factor vuol dire tasso di riempimento, lo dico agli ascoltatori. È una misura importante per tutte le imprese di trasporto, comprese quelle aeree, tanto per fare un esempio. Esattamente, che è uno dei problemi, tra le altre cose, di Alitalia. Ma detto questo, mentre i treni regionali, è vero che in orario di picco viaggiano molto più pieni, ma negli orari cosiddetti morbida, quindi pensiamo intorno a mezza giornata, durante la mezza giornata, chiaramente viaggiano molto meno pieni. La Roma Orte è proprio uno di quei tratti che dicevo io, cioè utilizzano i treni pendolari proprio una parte di alta velocità, e sono quei treni che fanno sì che chiaramente si diminuisca la capacità dell'alta velocità, perché quei treni utilizzano ad oggi una parte della tratta, sì, della tratta alta velocità. Perché? Perché a suo tempo, quando la rete era molto meno, chiaramente c'erano molti meno treni, molti meno viaggiatori, perché qua stiamo parlando di un aumento di viaggiatori, quindi benefici per tutti, a quel tempo Trenitalia con la Regione Lazio avevano fatto un contratto che diceva: ok, anche i treni regionali possono utilizzare una parte della rete alta velocità per recuperare alcuni tempi di percorrenza. Allora qua deve essere ben chiaro, nell'ottimizzazione del traffico, cioè se io ho una rete alta velocità, l'alta velocità deve essere utilizzata da treni ad alta velocità. Sì. Se io ci metto un treno regionale, un treno diesel su quella tratta, un Roma Orte. Esatto, cioè io faccio un grande investimento nell'alta velocità e poi lo utilizzo, sì, per i treni regionali. Può funzionare quando la rete è mezza vuota, ma quando la rete inizia a essere piena, grazie al fatto che ci sono tanti viaggiatori che devono viaggiare da nord a sud dell'Italia, chiaramente questo non può più funzionare. Maria, ti abbiamo recuperata? Sì, forse. Il fatto di avere dei treni occasionalmente vuoti è un caso abbastanza eccezionale, lo dico per esperienza di viaggiatrice sia di treni locali che di alta velocità. Io li trovo quasi sempre super pieni, e come giustamente rilevava il professor Giuricin, non è soltanto una questione di profitti che vanno tenuti in conto, è anche una questione di necessità del passeggero. Cioè l'alta velocità ha funzionato e ha cambiato la vita di tante persone, proprio perché uno sa di poter contare su un treno ogni ora, sicuramente lo trova in stazione, può arrivare anche all'ultimo minuto, fare il biglietto all'ultimo minuto. Cambiare come dire, i tempi toglierebbe proprio forza ed efficacia a questo trasporto. Giuseppe dalla provincia di Trento, rapidamente. No, c'è caduto. Maurizio dalla provincia di Latina, rapido anche, sì, lei, che siamo, buongiorno, vicini alla chiusura. Buongiorno. Prego. Molto brevemente, la domanda che pongo è questa: normalmente quando si eseguono riparazioni su materiali sensibili c'è sicuramente un protocollo di intervento, e do per scontato che nel protocollo di intervento vi sia anche la revisione finale, quindi anche il test. Il fatto che lo scambio non fosse in posizione chiusa ma aperta pone la domanda: è stata eseguita la riparazione seguendo pedissequamente il protocollo? Maurizio, mi permetto di interromperla solamente per dire questo, che ovviamente lo vedrà l'inchiesta, cioè qua ci sono dubbi che passano da questo e passano naturalmente anche dal fatto che dei sistemi automatici di controllo che avrebbero dovuto verificare se lo scambio era aperto o chiuso forse non hanno funzionato come avrebbero dovuto. Però ripeto, è tutto nelle mani dei pubblici ministeri, e questo lo vedremo, insomma, no? È un po', sì, un po' presto, un po' presto. Dal disastro non possiamo, certo, lanciarci in ipotesi, no? Sì, qualche voce di ascoltatore via WhatsApp. Peter Bescapè, vai. Mi piacerebbe che andassero a vedere, chiaramente senza renderle pubbliche, il curriculum delle persone che hanno lavorato lì alla manutenzione, perché che ci sia manutenzione, questo va bene, però bisogna vedere da chi viene fatta e la professionalità che hanno nel farla. Sinceramente però una cosa non la capisco, perché andare a fare sciopero e invece non devolvere queste due quote orarie o tre che siano ai figli delle vittime dell'incidente? Lo sciopero cos'è? Per un lutto? Condizioni di sicurezza? Bisogna rispettarle, controllarle, tanto che ne parliamo e facciamo documenti inutili al riguardo. Giuricin, sul tema della manutenzione, qua qualcuno anche ci pone la domanda via scrivendoci, il tema è appalti, subappalti, insomma un po' non si sa dove si va a finire e crescono i rischi, che dice? In realtà sul tema sicurezza, secondo me è quello che dicevo prima, bisogna fare attenzione a quello che ci possono essere stati degli errori per quanto riguarda questa manutenzione, saranno i pubblici ministeri a deciderlo e a vederlo. Detto anche questo, i soldi per la manutenzione ci sono, soprattutto anche nell'alta velocità, quindi mi sembra un po' sbagliato parlare finché non sappiamo esattamente cosa sia successo. Effettivamente cosa è successo. Un ascoltatore chiede, questa è una cosa un po' più tecnica, ma lo scambio aperto, come mai lo ha preso solo la prima carrozza e non le altre? No, l'hanno preso tutte, solamente che i Frecciarossa hanno un sistema molto avanzato di frenata automatica dei vagoni, quindi di fatto si sono fermati tutti. Claudio dalla provincia di Como, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per farmi intervenire. Prego. Volevo giusto fare un commento su quello che diceva il dottor Giudicin, che ritengo in parte vero. Io sono compagno di una capotreno di Trenord, posso dire figlio d'arte, nel senso che è una famiglia di ingegneri ferroviari, io poi faccio altro. Ecco, il tema della manutenzione degli investimenti sulla rete credo che veramente qui sia quello centrale. Io vivo per esempio la situazione della linea internazionale da Chiasso a Milano Centrale, che è una linea nodale nel collegamento anche business, se vogliamo, della Lombardia, e qui si paga veramente il fatto che RFI in particolare, che è il soggetto che troppo spesso non viene fuori, non abbia veramente lavorato in investimento. Ci sono stazioni fatiscenti, linee inzeppate di treni col trasporto merci tutti insieme. E per quanto riguarda invece il nodo di Firenze, che appunto diceva il dottor Giudicin, è vero che quello è un passaggio fondamentale dell'alta velocità, però sono stati fatti tantissimi studi di fattibilità e studi di sostenibilità economica che appunto evidenziavano come è un lavoro onerosissimo, che in realtà andrebbe a far risparmiare pochissimi minuti, e quindi io credo, da quello che ho letto e che sto vedendo, che sia un'opera che secondo me alla fine non verrà fatta. Ecco, tutto questo erano questi due commenti che volevo raccontare. Grazie, rapidissimamente Giuricin, poi la salutiamo. Simone, prego. Posso dire una cosa anch'io o no? Certo. Oh, sono tre ore che voglio dire, ma non ci riesco. Mi dispiace che l'ascoltatore della telefonata di 3 secondi fa non ci abbia ascoltato per intero, perché, come ci ha detto il sindacalista, un conto è lo sciopero di 2 ore che ha un senso simbolico e un altro è devolvere alle famiglie, e ci ha detto che lo faranno, tutto quello che da questo sciopero deriverà. È una cosa importante, perché sennò si crea l'impressione che i ferrovieri italiani scioperino per fare un dispetto ai passeggeri e non tengano conto invece delle famiglie dei due ferrovieri che sono morti. Mi faceva piacere precisarlo per quegli ascoltatori che magari si sono messi in contatto con noi soltanto adesso. Giuricin, velocissimo. Assolutamente, bisogna sempre vedere se è un'opera è utile o meno. Il nodo di Firenze sicuramente ha tanti problemi e anch'io ho tanti dubbi che vengano completato, però potrebbe risolvere i problemi sia per l'alta velocità ma anche per il trasporto pendolare. Grazie Andrea Giuricin per essere stato con noi dell'Università Bicocca di Milano. A chiudere, un accenno di politica, cara Maria, su questa battaglia sulla prescrizione. Prevedi. Sulla prescrizione. Dipenderà dalle nomine. Se Italia Viva magari otterrà qualche nomina pesante, sono 900 nomine quelle che deve fare il ministro dell'economia Gualtieri, se qualche bel nome pesante di quelli che contano, forse anche il braccio di ferro sulla prescrizione verrà meno. Se così non fosse, allora il governo Conte fallerà. Si tratta di aspettare ancora pochi giorni, mettiamola così. Va bene, vedremo. Abbiamo ancora un paio di minuti. Oh Maria, stamattina mi ha incuriosito questa notizia qua, questa che c'era su Avvenire, in realtà poi c'era già ieri sulla Verità, a Cremona, questa storia del volantino fatto circolare dal comune, no? E nel quale si dice in sostanza, beh, tra le azioni che potete fare per rispettare l'ambiente, per il bene del pianeta, c'è non fare figli. Ma sai, è una teoria che sta prendendo piede. Ricordiamo che anche il principe Harry qualche tempo fa disse: Meghan ed io avremo solo due figli per rispetto dell'ambiente, perché ci sono troppi esseri umani e questo crea un problema alla sopravvivenza del pianeta. Per carità, il problema è che c'è una disparità evidente tra alcune aree del mondo, segnatamente l'area occidentale e l'Europa. Ora, che a Cremona si lanci questo appello nel paese col più basso tasso demografico insieme al Giappone, beh, insomma, preoccupa un po'. Che si leggessero le statistiche che fanno i demografi e che ricordano a tutti noi come l'Italia sia un paese ultra vecchio, e a noi servirebbero più bambini, a dire la verità. E servirebbero però tutte le strutture che, come sempre dico, non ci sono per consentire alle donne di lavorare e avere figli. Io ho la coscienza a posto su questo fronte. Grazie Maria Latella. ci sentiamo. Ciao a tutti. No, domani no, no, ma pure il sabato. Ciao, lunedì. Però domenica connessione è perfetta. Buon fine settimana a tutti. Noi ci risentiamo ovviamente lunedì a partire dalle 6:30. Peter Bescapei in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ine e Francesco Ceraffo i nostri autori. A lunedì, ciao.